Data Breach, meaça, matai la su. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Piano piano, forse non viviamo più in una città fantasma come cantano i Rolling Stones, che ho chiesto anche oggi a Marco Lombardo, sempre presente, sempre attento, di mettere come introduzione alla notizia, prima notizia che vi voglio dare. Allora, bentornati a Due di Denari, sono Mauro Meazza, anche oggi da solo. Deborah ha qualche giorno di vacanza, pochi però naturalmente, e già venerdì torneremo alle due voci. Perché Ghost Town? Perché ancora un po' le città sono svuotate anche dal fatto che sì, le attività riprendono, ma spesso smart, da remoto, smart working. E qui c'è un po', ci sono un po' due teorie. Mi fa piacere esporvele come prima cosa, perché oggi è mercoledì, è il giorno in cui parliamo di lavoro e parleremo proprio di conciliazione vita-lavoro. Perché ci sono diverse misure, come sapete, nel decreto rilancio, provvidenze, ma anche il bonus babysitter e altro ancora, legge 104, permessi da legge 104, il bonus delle colf, insomma tutta una serie di misure che cercano di favorire appunto la conciliazione vita-lavoro. Ma come si fa in questo periodo in cui molti di noi hanno cominciato, sono stati costretti a lavorare da remoto con questa forma di smart working costretto? Ebbene, sappiate che il dilemma attanaglia anche grandissime imprese sovranazionali, perché ci sono addirittura due filosofie che vedono contrapposti i vertici di Facebook e quelli di Microsoft. Facebook ha annunciato che già da luglio assumerà persone che poi lavoreranno da casa, quindi niente uffici per chi andrà a lavorare da Zuckerberg, e invece Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, dice no, assolutamente qui non si possono azzerare i rapporti umani tra i dipendenti in ufficio, e quindi torniamo per favore quanto prima, quanto possibile, alla normale attività lavorativa in presenza. Vedo dall'altra parte del vetro annuire Peter Bescapè, dice lui non se n'è mai andato, anche oggi in regia, infatti presente, dotato di regolamentare mascherina e guanti. Dietro di lui la bella figura, nonché oggi da festeggiare perché è il suo compleanno, di Elisabetta Baba Fusconi. Auguri anche da parte di Due Dinari, cara Elisabetta. Allora, siete pro contro lo smart working? Ma questo smart working vi ha convinto? Chi lo sa? Oggi però appunto parliamo di lavoro, perché è mercoledì, parliamo di metodi e risorse per conciliare vita e lavoro. E i numeri sono quelli abituali, ve li ricordo, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, il nostro numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS o messaggi WhatsApp anche vocali. Prima di cominciare con i temi della giornata avremo anche una interessante incursione con Assolavoro, agenzie per il lavoro, parliamo quindi di agenzie per il lavoro nella prima parte della trasmissione, ma prima di tutto questo andiamo al nostro giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. L'ho già annunciato ieri, ma mi fa piacere ricordarlo anche oggi, perché è stato ed è tuttora una delle cose su cui ci arrivano più domande, più richieste di chiarimenti, anche qui in redazione, anche alla nostra email 2didenari@radio24.it. Sto parlando del bonus del 110% per i lavori in casa. Oggi con il Sole 24 Ore in edicola trovate in allegato proprio un focus dedicato ai lavori in casa e ovviamente con ampia parte dedicata proprio al bonus 110%. Di questo bonus, peraltro, abbiamo parlato venerdì qui a Due di Denari, trovate sul nostro sito www.radio24.it, nella sezione dedicata al nostro programma Due di Denari, trovate il podcast della puntata di venerdì se volete riascoltare i nostri esperti che hanno spiegato le prime cose possibili da dire, perché non tutto chiaramente è ancora stato definito nei dettagli, di questo bonus. Oggi in edicola, venerdì ne abbiamo parlato, venerdì scorso ne abbiamo parlato in radio. Oh, poi se ci fossero altri dubbi che volete sottoporre ai nostri esperti, vi ricordo che è in corso sul sito del Sole 24 Ore un forum dell'Esperto Risponde. Lo trovate all'indirizzo ilsole24ore.com, poi / ilsole24ore.com/ forum rilancio, così come ve lo dico senza punti alcuni. Sarà possibile inviare domande fino alle ore 14 di venerdì 5 giugno. Oggi già sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Norme e Tributi, da leggere come sempre religiosamente, lo dico anche a beneficio di Bava Fusconi che infatti annuisce, dicevo da leggere sempre religiosamente, ci sono anche le prime risposte redatte dai nostri esperti. Parliamo un attimo di prezzi, le mascherine. Le mascherine sono oramai, insieme ai guanti, se posso permettermi di aggiungere questa annotazione, sono un po' il tema delle nostre ricerche di queste settimane e continuano a essere le mascherine sorvegliate speciali. Assoutenti ha raccolto con la campagna Mister Prezzi uno scenario, ha chiesto ai cittadini di far pervenire scontrini e foto dei prodotti e così è stato messo a fuoco, spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, il fenomeno dei rincari e delle speculazioni. Sono stati finalizzati 52 esposti portati ad altrettante procure della Repubblica, prevalentemente segnalazioni dovute a rincari per le mascherine, ma risultano rincari immotivati anche per altri prodotti, l'alcol, i gel detergenti, i guanti e anche i generi alimentari. Altra segnalazione che vi do, il conto del Covid, rapporto annuale Censis Confcommercio, le famiglie vedono nero, tagliano le spese e tagliano anche le vacanze. Secondo questo rapporto Censis Confcommercio, è un'indagine che è stata fatta a campione, devo dire risalente proprio al periodo più duro, più stringente della quarantena, del cosiddetto lockdown, dal 15 al 30 aprile. Secondo questo rapporto quasi 6 famiglie su 10 avevano paura, hanno manifestato appunto paura per la perdita possibile del posto di lavoro e con previsioni pessimiste per la propria situazione e anche per la situazione complessiva del paese. Rinviate molte spese programmate, ne sono state fatte di nuove come abbonamenti alla Pay TV, a nuovi strumenti tecnologici e quasi il 30%, ripeto, è un sondaggio che è stato condotto ad aprile, quindi nella fase anche più dura, più stringente delle misure di limitazione. Dicevo, quasi il 30% aveva annunciato in questo campione che non avrebbe fatto vacanze per questo 2020. L'ultima notizia, l'ultima segnalazione che vi do è relativa al lavoro, proprio per cominciare a entrare nel tema che andremo ad affrontare in questa puntata, riguarda il lavoro in agricoltura. Ricordate che ne abbiamo parlato in qualche mercoledì proprio di recente qui a Due di Denari. Secondo AgriJob, che è questa piattaforma che è stata attivata da Confagricoltura per favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro in agricoltura, sono arrivate già 30.000 richieste per lavorare nei campi. Ricordiamo che era stato stimato un buco, una mancanza di lavoratori necessari di circa 350.000 unità. si sono però candidati, segnala appunto la piattaforma AgriJob, giovani laureati, laureandi in diverse discipline, ovviamente anche in scienze agrarie, ma disoccupati provenienti ad esempio dal settore della ristorazione, che ha subito una pesante battuta d'arresto. Circa l'80% di queste segnalazioni, più di 30.000 appunto dal 7 aprile fino a oggi, è di nazionalità italiana. Il 30% di queste segnalazioni proviene da donne. Una vera e propria valvola di sfogo è stato il commento del presidente Massimiliano Giansanti in un momento cruciale del paese in cui spesso il lavoro, ohimè, è scomparso. AgriJob è un progetto cui Confagri pensava da tempo e c'è stata un'accelerazione proprio per il coronavirus. Era l'ultima notizia del nostro giornale Radio del Risparmio di oggi. Andiamo a sentire che cosa ci hanno voluto dire, cosa avete voluto dirci nella nostra rubrica Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno. Io lavoro in una palestra, ho quello che è un contratto sportivo, che non so se conoscete come funziona, guadagno all'incirca 1500 euro al mese, un mese un po' di più, un mese un po' di meno in base alle ore che faccio. Con questo contratto non ho diritto a ferie, non ho diritto a contributi, non ho malattia e è impossibile ottenere un mutuo o un finanziamento per un'auto. Con il mio stipendio devo avere un piano di accumulo, non avendo dei contributi, devo mettere via i soldi perché prima o poi la macchina la dovrò cambiare, devo vivere e devo anche pagare un affitto. Ovviamente nei mesi in cui la palestra è stata chiusa io non ho lavorato, ho fatto la richiesta per i 600 euro, però essendo che io guadagno più di 10, ho dichiarato più di 10.000 euro, non ho fatto la dichiarazione, comunque guadagno più di 10.000 euro all'anno, no, a quanto pare non ho diritto ai 600 euro. Vi sembra una cosa normale? Quando partite IVA, che guadagnano sicuramente di più e che dichiarano quello che dichiarano, invece hanno ottenuto il contributo dei 600 euro. E non parliamo di professionisti che guadagnano molto, molto di più, che hanno fatto richiesta e hanno ottenuto comunque 600 euro. Non lo so, a me sembra veramente paradossale. Se lo ascolterete, se ne parlerete, mi farà piacere, altrimenti quantomeno è stato uno sfogo. Grazie mille. Effettivamente abbiamo scoperto, per dir così, con questa emergenza e con questi aiuti che sono stati disposti a molte categorie, a diverse categorie, che ci sono pur tuttavia delle aree, anche dei tipi di contratti che ohimè risultano non coperti, non tutelati, ai quali, come segnala questo ascoltatore, non riesce ad arrivare alcun tipo di sostegno, neanche questi 600 euro appunto che sono stati disposti, ricorderete, dal primo decreto legge, quello che abbiamo chiamato Cura Italia. Ma è un po' tutto il mondo del lavoro che insomma è soggetto a una serie di trasformazioni importanti, e infatti di questo volevo parlare con il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, che è tornato a essere oggi nostro ospite. Bentornato presidente Ramazza. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Presidente, voi ieri avete svolto una assemblea dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, e avete anche presentato una serie di proposte, alcune magari più di ambito così di respiro lungo, ecco, di medio respiro per dir così, ma altre anche molto urgenti, cioè iniziative che si dovrebbero prendere rapidamente per affrontare questa fase difficilissima di ripresa dal coronavirus. Ce ne può parlare? Sì, tanto mi faccia dire che sono solidale con l'ascoltatore che ha appena lasciato il messaggio, perché in effetti questi provvedimenti hanno lasciato dei buchi e occorrerebbe da parte del legislatore sempre verificare l'efficacia delle proprie leggi e quanto nella realtà poi raggiungono gli obiettivi che si erano intesi dare. Urgentemente, secondo noi, occorre dare agilità alle imprese, oltre che protezione ai lavoratori. Agilità alle imprese intendo il fatto che, per esempio, i rapporti di lavoro a tempo determinato non è che possono stare senza la causale solo fino al 30 d'agosto. Qui le imprese non hanno una vista delle loro commesse, della loro attività che si vada oramai a qualche settimana. C'è bisogno di avere un piano per tutto il 2020 e per tutto il 2021 che permetta di essere agili, di poter cogliere le opportunità che ci sono sui mercati internazionali e sui mercati interni. E non è possibile che questo le aziende lo facciano pensando che subito assumeranno a tempo indeterminato. Quindi questa flessibilità deve essere assicurata. Dall'altro lato ovviamente ci vuole anche protezione per i lavoratori. Il nostro settore, che ha pagato il 15 del mese tutte le ore non lavorate ai propri dipendenti in somministrazione, cosa questa che ritengo siamo l'unico settore ad averlo fatto. E quindi diamo sicurezza da un lato e flessibilità dall'altro. Ecco, sostanzialmente si tratta di superare, diciamo, quello che era stato disposto soltanto neanche due anni fa, insomma, col cosiddetto decreto dignità, perché lì appunto è stata posta questa causale, adesso è stata sospesa per così dire, ma voi segnalate che questa sospensione fino ad agosto rischia di essere poco efficace, è un po' il senso della vostra richiesta? Assolutamente sì, è uno del decreto dignità che andrebbe assolutamente superato. Penalizza i lavoratori perché non c'è stato un grande incremento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato se non all'inizio. Quello che è accaduto è che è avvenuto un grande turnover, cioè le aziende, dopo che avevano avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con un certo lavoratore, hanno scelto di non continuare con quello ma di prenderne un altro. E questo in realtà ha generato ulteriore precariato. Tra l'altro poi voi proponete anche una cosa che mi incuriosisce, ponete l'accento sulla questione della formazione professionale o anche della riqualificazione con questa proposta di open badge. Cosa significa open badge, Ramazza? L'open badge è una forma, diciamo, digitale nella quale catalogare, mettere come in una sorta di libretto le competenze acquisite nel corso del tempo dalla persona, sia durante la scuola, l'università, i corsi di formazione professionale e le sue esperienze professionali, in modo che sia facilmente ricollocabile, oppure che, venendo a conoscenza di quelle che sono le sue competenze, la sua storia professionale, la sua storia formativa, possa essergli proposto un modulo di formazione per poter essere avviato rapidamente a un nuovo lavoro. In modo da avere anche una possibilità alternativa. Vi attendete, qual è la vostra previsione? Vi attendete che questo impatto fortissimo, questo shock del coronavirus provochi anche dei forti cambiamenti non solo nelle necessità occupazionali, quindi alcuni settori avranno più, altri meno bisogno, ma anche nelle modalità organizzative? Assolutamente sì. Lei è più per il modello Zuckerberg, cioè tutti in smart working, o per il modello Microsoft che dice ma no, non si può mica rinunciare alla presenza fisica, ovviamente fatto salvo le caratteristiche di ogni tipo di lavoro? Ma io credo che nello smart working ci sia tanti aspetti positivi e ci siano anche delle criticità. Lavorare insieme nel medesimo luogo è anche un modo per scambiarsi informazioni, scambiarsi esperienze, la collaborazione è un elemento essenziale. D'altro canto lo smart working, se è smart e non solo telelavoro, perché lo smart working vuol dire essere orientati al risultato in modo particolare, può dare maggiore efficienza per certi versi e dall'altro anche ridurre certi costi di trasporto o anche costi ambientali come quelli dell'inquinamento. Voi proponete anche un credito d'imposta per la riorganizzazione del lavoro, era un po' per questo che le facevo questa domanda su quale modello lei privilegiava. In cosa dovrebbe configurarsi, posto che mi immagino non sarà una cosa che riusciremo a vedere nei prossimi provvedimenti o nella conversione degli ultimi decreti legge, insomma, di cui il Parlamento sta discutendo adesso? Oggi è in vigore un credito d'imposta per l'innovation manager. Cioè un manager che all'interno dell'azienda dovrebbe curare tutte le proposte e i progetti di carattere innovativo. Noi chiediamo che la stessa cosa venga fatta per figure che sono oggi urgenti, uso questo termine per intenderci, il Covid manager. Ogni azienda adesso sta adottando dei protocolli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi protocolli hanno bisogno di essere verificati, controllati, le distanze tra i lavoratori, l'accesso al luogo di lavoro e quant'altro, la pulizia, la sanificazione. Ecco, questa è una figura importante in questo momento all'interno delle aziende ed è una figura che è oltre tutto ciò che oggi abbiamo conosciuto che è un costo vero, credito d'imposta su questo sarebbe assolutamente utile. E poi ci sarebbe però, Ramazza, il problema della burocrazia, infatti voi lo ponete tra uno dei vostri 8 punti di proposte delle agenzie per il lavoro per la ripartenza. E abbiamo visto, abbiamo toccato con mano, stiamo toccando con mano come talvolta, davvero come si dice, il diavolo è nei dettagli burocratici, per cui senza colpa di nessuno, ma tutte le questioni si rallentano perché serve una firma in più, perché serve una presenza in più, perché questo però, perdoni, voi lo mettete nelle vostre proposte, fate sicuramente bene, ma ne parliamo oramai da tanti anni, direi da decenni, date anche qualche indicazione operativa più puntuale proprio per quanto riguarda il lavoro? Sì, in modo particolare riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione e quindi anche l'adeguamento del personale della pubblica amministrazione. Teniamo conto che i dipendenti pubblici hanno una media di età di 53 anni, quindi ci sono pochi giovani e quelli diciamo più anziani hanno meno confidenza con tutti i processi di digitalizzazione. Qui sarebbe necessaria un grande impatto sia di introduzione di programmi digitali sia di formazione e di riqualificazione del personale. C'è una qualche preoccupazione per quanto riguarda il tipo di attività appunto delle agenzie per il lavoro e poi la sicurezza nei posti di lavoro dove questi lavoratori vengono assegnati. Qual è la vostra percezione come agenzie per il lavoro? Cioè le aziende si stanno adeguando, si sono adeguate in modo soddisfacente, al di là delle questioni che abbiamo sollevato prima, la necessità di un manager che si occupi di gestire tutte le nuove esigenze sanitarie per quanto riguarda il posto di lavoro? Per noi siamo perché ci si possa riprendere presto a lavorare e che questi protocolli che vengono adoperati siano adottati rapidamente. Riteniamo anche soggettivamente come singole agenzie che questo sia anche un nostro modo per favorire la ripresa. Ah, abbiamo improvvisamente perduto il collegamento. Ad adottare i protocolli. L'abbiamo perduta per qualche istante, ma credo che non abbiamo perduto il concetto principale, che era quello appunto di una estrema attenzione alle condizioni di sicurezza e all'attuazione dei protocolli, me lo conferma Presidente Ramazza. Assolutamente sì. Allora io la ringrazio, ci dobbiamo fermare ora come sapete per le informazioni dai mercati finanziari, oggi affidate a Livia Zancaner. Ringrazio Alessandro Ramazza, Presidente di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, le proposte per la ripartenza del paese, tra cui appunto formazione, open badge e anche una maggiore flessibilità proprio per la fase di ripartenza, non solo limitata a questi primissimi mesi di, speriamo, uscita definitiva dal coronavirus. Grazie Presidente Ramazza e adesso le borse. Bravi, fate pubblicità alle banche, bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali e nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Due di denari. Dov'è il nuovo lavoro? Buongiorno, nel mondo dell'impresa 4.0 ci sono molte professioni che non possono adeguarsi a questa situazione dove il lavoro e soprattutto il valore umano è impagabile e penso che ci debba trovare un compromesso tra queste due situazioni, ma reputo sempre il valore umano, la presenza della persona, soprattutto a livello italiano, la cosa maggiore e migliore. Buongiorno Luca da Bologna. un messaggio in controtendenza per tutti quelli che hanno lavoratori autonomi che lamentano di non ricevere nulla, di non essere considerati, bla bla bla. Ma i contratti che avete fatto li avete firmati voi? Forse non li avete letti prima di firmarli, no? Grazie. Allora, dov'è il nuovo lavoro? Dice la sigla della nostra rubrica che da tempo, da anni ormai, tutti i mercoledì ci tiene compagnia. Oggi forse era più indicato un com'è il nuovo lavoro, e infatti questa ambivalenza smart working o telelavoro o lavoro in presenza, insomma, sta suscitando anche molto interesse da parte vostra. Ne parliamo con due esperti ovviamente di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari. Do il benvenuto in rigoroso ordine alfabetico per cognome a Dino Giornetti dell'area fiscale CAF CISL. Buongiorno Giornetti. Buongiorno a voi. E a Matteo Prioschi, collega del Sole 24 Ore, spesso appunto firma autorevolissima per le questioni di lavoro e di welfare. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Allora, vi leggo per entrare nel tema conciliazione vita-lavoro. Già avete ascoltato, insomma, qualche indicazione che è giunta dalla chiacchierata con Alessandro Ramazza, qualcosa che arriva dai nostri ascoltatori. È arrivato anche un messaggio SMS 349-238-6666, potete usare questo numero sia per gli SMS che per i WhatsApp, che dice, guardate, oggi non stiamo parlando di smart working, qui è un lavoro da remoto in situazioni di emergenza, perché con bimbi in casa non si può valutare questa esperienza come se fosse uno smart working normale. E infatti noi vogliamo proprio parlare di queste varie provvidenze che ci sono, insomma, dal bonus che è stato disposto per le call, per sostenere le call, che però in molti casi non sono state impiegate, magari non sono state neanche remunerate o sono state ugualmente remunerate, ne parleremo con Giornetti, ad altre misure. Allora, tra l'altro questo doveva essere l'anno, ti chiedo solo una battuta Matteo, oggi ne parliamo sul Sole 24 Ore, ne parla il collega Giorgio Pogliotti, l'anno del Family Act famoso, che doveva riordinare tutte le misure per quanto riguarda la famiglia. Mi pare che dobbiamo avere un po' di pazienza su questo, se comprendo bene l'articolo del collega Pogliotti. Tu che dici? Sì, diciamo che l'emergenza ha sconvolto un po' i progetti, quindi si naviga a vista questo momento, e se ne riparlerà più avanti del riordino di tutte le misure. E intanto proseguiamo con le misure cosiddette emergenziali, cioè quanto è stato varato o reiterato nei decreti. Allora, ad esempio, nell'ultimo, il decreto legge rilancio, il decreto legge 34, lo dico per un ordine mentale mio particolare, è stato reiterato il congedo parentale con una estensione, capisco bene, Matteo Prioschi? Sì, la formula è che mentre prima col decreto 18, il Cuore Italia, erano stati previsti 15 giorni da utilizzare dalla chiusura delle scuole, quindi dal 5 marzo alla fine di aprile, adesso è stato previsto che i giorni sono 30 e possono essere usati, diciamo, fino alla fine di luglio, poi ci sono dei chiarimenti che dovranno essere forniti. Quindi è stata potenziata in buona sostanza la misura che c'era già in precedenza, quindi sì, si può parlare di estensione. Questo tipo di congedo è in qualche modo connaturato ad altri strumenti come l'ISEE, dimostrazione di altre cose, eccetera, oppure si può semplicemente chiedere e si chiede al datore di lavoro? No, allora questo congedo non è collegato all'ISEE, e anzi ha la particolarità, cioè diciamo che segue tendenzialmente le regole principali dei congedi parentali e ordinari. La particolarità è che viene erogato a fronte di questa causale Covid, diciamo, e non va a incidere, non erode, diciamo, il pacchetto di giorni a cui si ha diritto normalmente per il congedo parentale. Ricordiamo che per i lavoratori dipendenti del settore privato il congedo parentale, sommando i due genitori, può arrivare a un massimo di 11 mesi nell'arco dei 12 anni di vita del figlio. ecco, i 15 giorni precedenti, che poi adesso diventano 30, vengono, possono essere utilizzati e non vanno a erodere quella disposizione di 11 mesi a cui può accedere la famiglia. Quindi questi giorni che sono stati stabiliti adesso, da ultimo dal decreto legge rilancio, non entrano nel conto degli 11 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino. Ho compreso bene, Matteo? Sì, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, sì. Poi c'è da capire cosa succederà per le iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, perché la norma non è chiaro se le estende anche a loro, e in questo caso appunto le regole erano parzialmente diverse anche col decreto 18. E poi vabbè, per il settore pubblico il congedo inizialmente non era previsto, è stato introdotto in via eccezionale appunto in questa, col decreto 18, e anche qui bisogna chiarire bene se l'estensione a 30 giorni vale anche per il settore pubblico o meno. Allora, passiamo dunque una sola battuta, Matteo, sulla legge 104. Ne parliamo o meno, ma invece è molto importante, perché sia col decreto Cura Italia che con questo ultimo, il decreto rilancio, sono stati previsti dei giorni extra per chi deve assistere un familiare con problemi di diversa natura, insomma. Questa 104 prevede anche lei, con il decreto rilancio sono stati previsti dei giorni extra fruibili per, credo, fino a giugno, se non ho compreso male nei vari articoli del decreto legge. Sì, confermo. Allora, il Cura Italia aveva previsto 12 giorni aggiuntivi da usare nei mesi di marzo e aprile. Il rilancio invece prevede altri 12 giorni aggiuntivi da usare tra maggio e giugno. Scusate. I 12 giorni si possono spalmare sui due mesi, quindi uno può farne 12 tutti in un mese, piuttosto che 3 da una parte e 9 dall'altra, 6 e 6, c'è libertà di utilizzo. Si sommano ai 3 mensili a cui già si ha diritto, quindi nel bimestre, in questo caso maggio-giugno, si ha diritto a complessivamente a 18 giorni. Allora, chiarite, riepilogate per quanto possibile, perché come avete ascoltato, come ci ha spiegato Matteo Prioschi, alcune cose sono ancora un po' da decifrare, come sempre succede in questi casi, con specialmente... Sì, scusami. Prego, Matteo. Faccio una precisazione. Ecco, l'approssimazione di alcune indicazioni relative ai congedi del decreto 34, cioè del rilancio, l'ultimo, l'estensione, è dovuta al fatto che la norma purtroppo non è chiara e è stata costruita andando a modificare quella del 18. Purtroppo i rimandi che ci sono tra un testo e l'altro in alcuni casi non collimano, non sono congruenti, quindi a questo proposito è molto importante dirvi quanto prima la circolare dell'Inps che interviene su questo aspetto e dia dei chiarimenti e dia anche la possibilità appunto di utilizzare questi congedi, perché ad oggi sul sito dell'Inps ci sono ancora le regole relative ai 15 giorni. Dovrebbe essere imminente però, giusto Matteo, questa circolare? Sì. La attendevamo già, sì. Insomma, per esatto. Questi giorni, quindi ce l'aspettiamo ad horas, avrebbero detto quelli bravi. Allora, passiamo allora alle misure, per così dire, di sostegno alla famiglia con aiuti proprio fisici, cioè ad esempio colf e badanti, giornetti. Solo un minuto per ricordarci, poi ci fermiamo per il traffico, ma per ricordarci la provvidenza, l'indennità destinata a colf e badanti. Prego, Giornetti. In questo caso la norma sembra abbastanza chiara, già l'Inps dà la disponibilità sul proprio sito di richiedere il beneficio a chi? A circa 470.000 potenziali lavoratori domestici che abbiano una caratteristica abbastanza definita e semplice, che è quella di avere uno o più rapporti di lavoro domestico registrati presso l'Inps alla data del 23 febbraio, lavoratore a ore che abbia almeno una sommatoria complessiva di ore lavorate a settimana superiore a 10, quindi almeno 11 ore settimanali. Parliamo di un bonus di 1.000 euro in un'unica soluzione, erogato via bonifico o domiciliato presso lo sportello postale o un bonifico accreditato direttamente sul conto corrente. Si può chiedere via sito INPS oppure rivolgersi al CAF o al patronato, è corretto? In questo caso il CAF non può presentare la domanda, ma può in maniera gratuita l'interessato può rivolgersi al patronato che velocemente invia la domanda. C'è da dire che non rileva il fatto di aver sospeso il contratto, il rapporto di lavoro, in quanto il contratto rimane in essere, quindi l'unica condizione è quella delle 11 ore settimanali alla data del 23 febbraio. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore domestico fossero percettori di reddito cittadinanza, il cui importo mensile risultasse essere inferiore ai 500 euro e avendo il diritto anche come lavoratore domestico all'indennità, verrà integrato per due mensilità il reddito di cittadinanza fino alla quota dei 500 euro automaticamente ai beneficiari. Quindi non spetterà l'intero bonus 500 più 500, cioè 1000 euro, ma l'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'importo di 500 euro mensili. Corretto, per due mensilità. Bene, allora un attimo ci fermiamo per le informazioni sulla viabilità, cioè insomma il traffico. Due di denari. Buongiorno, risposta all'altro ascoltatore. L'autonomo ha firmato quel contratto perché evidentemente non aveva nessun altro tipo di contratto da firmare. Grazie. Buongiorno, chiamo in risposta al messaggio mandato da un ascoltatore in quanto lavoratore autonomo. Ecco, forse non ha ben chiaro come è un lavoratore autonomo, non c'è contratto, non c'è niente. Se uno lavora guadagna, non c'è cassa integrazione, non c'è tredicesima, non c'è quattordicesima, non ci sono malattie pagate, non ci sono ferie pagate. Perciò uno ha qualcosa da parte oppure può essere davvero in difficoltà. Buongiorno. Sì, se posso aggiungere da parte mia, poi la dicotomia, quella classica, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, via via, è sempre più sfumata, nel senso che ormai le modalità di prestazione lavorativa, diciamo così, si vanno sfumando non solo per i parasubordinati cosiddetti, ma anche per appunto utilizzi di altri tipi di contratti. Ma questo lo sanno molto bene i nostri due ospiti di oggi, Dino Giornetti del CAF CISL e Matteo Prioschi del Sole 24 Ore. Matteo, qui c'è una domanda che ricorre da più, devo dire, ascoltatrici che ascoltatori. Bonus babysitter e compatibilità con il congedo straordinario per cura dei figli, sono due misure che si possono prendere o ci sono delle limitazioni? In generale tutte queste misure a volte sono limitanti, cioè vincolate, a volte no. Allora, le due misure sono alternative per la specifica previsione della norma, cioè quindi o si prende il congedo straordinario Covid o si utilizza il bonus babysitter alternativo introdotto sempre dal decreto 18 e ora prorogato dal decreto 34. Qua c'è una domanda, sorta una domanda che anche qui a cui si attende risposta, cioè se nella prima versione, cioè quella dei 15 giorni, l'alternativa era secca, ma anche perché così prevedeva la misura, cioè diceva o 15 giorni o fino a 15 giorni oppure ti prendi il bonus da 600 euro per pagare la babysitter. Avendo esteso le misure, quindi fino a 30 giorni e due sostanzialmente rate di bonus, quindi 600 più 600, potrebbe esserci la possibilità di mischiare i due, di alternare le due misure, cioè magari chi ha avuto, chi ha chiesto 15 giorni di congedo in base al decreto 18, in questa seconda fase magari potrebbe essere utile chiedere invece il bonus per 600 euro. Anche su questo attendiamo indicazioni, perché fondamentalmente la norma invece dice che le due misure sono alternative. Cioè o si prende l'una, sì, o prendi l'altra. Questo almeno fino a luglio possiamo immaginare, cioè questa è la disposizione che è stata data, no? L'orizzonte temporale. Parliamo dei congedi straordinari Covid e del bonus babysitter Covid, che è un'altra misura appunto che era stata introdotta in eccezionale per far fronte alla chiusura delle scuole e la necessità di accudire i figli fino a 12 anni tendenzialmente. Infatti, a proposito di chiusura delle scuole, perché il bonus babysitter adesso si può utilizzare anche per i centri estivi. Ecco, la novità è questa qua. In buona sostanza, allora, col decreto 18, quando è stato introdotto, era stato indicato come appunto soluzione alternativa al congedo e poteva essere richiesto anche a fronte del fatto che la resta dell'asilo nido continuava a essere pagata. Quindi era il bonus babysitter era incompatibile col congedo, ma compatibile con l'aiuto, è un'altra delle tante misure che ci sono a livello di welfare, del bonus specifico per pagare l'asilo nido, no? Legato all'IVE in questo caso. Sì. Il decreto 34 cosa fa? Dice che non c'è più questa compatibilità tra il bonus babysitter e la possibilità dell'aiuto, il contributo per pagare l'asilo nido. In compenso il bonus babysitter può essere utilizzato per pagare il centro estivo, qualora riaprisse e dovrebbero riaprire nelle prossime settimane. Perché la logica è, quindi a questo punto, l'asilo nido è chiuso, non lo si usa, non lo si paga, tu lo mandi al centro estivo e quindi noi ti consentiamo di usare i 600 euro per pagare l'asilo nido. Sempre però commisurato all'ISEE, ho capito bene Matteo? No, questo bonus babysitter lo usi senza ISEE. Senza ISEE. Okay. Lo prendi anziché usarlo per pagare la babysitter con il decreto famiglia tramite l'INPS, questa procedura un po' articolata, sì, ma che comunque va rispettata. Il decreto 34 prevede che i 600 euro vengono erogati direttamente alla mamma o al papà e questi poi li usa per pagare il centro estivo. Scusate. No, mi hai fatto venire in mente l'ISEE perché proprio con Giornetti del CAF CISL ci segnalava una serie di dati. C'è una lieve flessione nella richiesta di ISEE, Giornetti, cioè erano a 5 milioni, più di 5 milioni l'anno scorso nei primi 5 mesi, quest'anno invece sono sotto i 5 milioni, siamo a 4 milioni e 600 mila. Ma come mai, Giornetti? Sì, no, manca rispetto al numero paragonato, i 5 milioni e 2 sono fino a fine maggio, mentre abbiamo la rilevazione fino al 26 maggio, quindi la differenza è minima nonostante i due mesi di rallentamento evidente per problema di chiusure e altro. Noi abbiamo cercato come sistema di CAF di garantire l'assistenza a tutte le famiglie che ne avevano bisogno, con le nuove prestazioni che leggiamo nel decreto rilancio, come ad esempio il reddito di emergenza, che dovrebbe andare a coprire un'ulteriore platea di 1.200.000 circa famiglie che non avevano potuto beneficiare del reddito di cittadinanza. Quindi ci aspettiamo un grandissimo aumento delle ISEE, comprensivo anche del bonus vacanze, che prevede un ISEE con una soglia molto elevata di 40.000 euro, quindi prevediamo che questo, con l'avvio di queste prestazioni, il numero delle richieste sarà altissimo e ci stiamo attrezzando insieme all'attività della dichiarazione dei redditi, che è tipica, e del pagamento dell'IMU, che sono tipiche di questo periodo, ci stiamo attrezzando sempre. Con le difficoltà che tutte le aziende hanno in questo periodo, chiaramente. Ma infatti, guardi, lei ha citato l'IMU, abbiamo proprio un minuto, ma voi avete anche fatto una richiesta, non solo voi, mi pare insieme anche ad altre associazioni, per dire magari sarebbe meglio rinviare perché temiamo l'assembramento ai CAF, è così, è giusto? Corretto, la ringrazio. Lazio, perché noi siamo molto preoccupati, a parte le difficoltà che ci evidenziano le famiglie, difficoltà economiche, a parte questo i CAF, così come le altre aziende, hanno dovuto ridurre per problemi di assemblamento, quindi la disponibilità quasi del 50%. Ci ritroviamo ad oggi con le stesse scadenze, la prima rata, il versamento richiesto entro il 16 giugno e la seconda rata, il saldo entro il 16 dicembre, a trovarci con numeri abbastanza irrisori in questa fase, quindi siamo molto preoccupati di quello che potrebbe avvenire gli ultimi giorni di giugno, prima della scadenza, quindi prima del 16. Per questo abbiamo chiesto al governo e sottolineato anche all'ANCI la possibilità di pagare in un'unica soluzione al saldo, quindi alla data del 16 dicembre, oppure o in alternativa comunque ha chiesto una proroga per la prima rata dal 16 giugno a fine luglio. Questo per garantire anche la tranquillità di tutti i cittadini che si rivolgeranno gli ultimi giorni al CAF, soprattutto al CAF. Grazie Giornetti di Imposte Locali, abbiamo parlato proprio ieri, la puntata è a disposizione sui nostri podcast, grazie anche a Matteo Prioschi e a domani.